Certo che rivederti ancora adesso un qualche brivido mi dà. Certo che non è più lo stesso e tu puoi non credermi, ma non ti ho scordata mai. Davvero. Certo che sto cercando ancora adesso un equilibrio che forse non ho. Quello che tu dicevi sempre di essere sicura di averne trovato un po'. Spesso sai, me lo chiedo ancora adesso, sai. E mi torna in mente quando eri la ragazza del mio cuore tu. Quella luce che negli occhi avevi, come vedo non si è spenta più. Ti vorrei rivivere, anche solo per un attimo. Io vorrei rivivere quella prima volta io e te. Ma sì, sei bella ancora adesso.